Eccoci, buona domenica e ben ritrovati di nuovo nel podcast di Land of Rust. Allora, dopo un paio di speciali videoludici, questo nuovo log è un free speech dove posso parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. In questo caso parliamo di collezionismo. Eh sì, perché io mi ritengo un discreto collezionista. Mi piace andare quasi tutti i giorni su. Tendenzialmente su eBay, ma anche su Amazon, alla ricerca di titoli horror e survival horror che mi potrebbero interessare, insomma. Parliamo di titoli di tutte le epoche, sia dal Commodore 64 a PlayStation 4, quindi. E niente, volevo condividere con voi le mie impressioni riguardo più che altro dei titoli che sono veramente dei pezzi rari. Vabbè, probabilmente molti già li conoscete, altri magari non li conoscete, quindi potrebbe magari fare interessare anche a voi, nel caso in cui anche voi siate collezionisti abbastanza incalliti. Allora, considerate che comunque io sono un collezionista, ma comunque non di quelli esagerati, cioè non quelli che hanno la parete di casa piena di scaffali con l'edizione coreana del primo Resident Evil. No, ragazzi, io sono un collezionista abbastanza, come dire, non compulsivo, nel senso che comunque a me piace collezionare giochi di cui poi nu posso nutrire un discreto ricordo. Perché io che cacchio me ne faccio della versione coreana buttata lì? Cioè, preferisco avere una collezione un po' più piccola, dove però ogni titolo rappresenti un ricordo speciale, sia magari dei tempi in cui ho giocato a quel gioco, ma anche il ricordo dell'esperienza in sé. E quindi niente, facciamo. Quindi diciamo, io ho una collezione, ma non è la classica collezione dove c'è tutta una parete intera, insomma. Poi se mi chiedete quanti titoli ho, e non ve lo saprei dire. Quindi fatto sta che insomma, il giorno in cui diranno che il formato fisico andrà in pensione, io sarei un uomo molto triste, tutto qua. Allora, facciamoci un bel giro su eBay, va? Così proprio cotto e mangiato. Allora, vabbè, allora io direi di iniziare. Mi sono fatto una piccola lista. Allora, passiamo in una delle generazioni di console dove sono presenti discreti pezzi abbastanza rari. Cioè, parliamo della generazione PlayStation 2, dove chiaramente il primo gioco che viene in mente è Rule of Rose, che io ho acquistato a un prezzo tutto sommato buono, perché io l'ho pagato tipo 120 euro. Insomma, allora, Rule of Rose, eccolo qua, 220 euro, 141 euro, 400 euro sigillato. Questo qua, 250 euro come nuovo. Vabbè, ragazzi, si è commentato da solo, beh, lo sapete benissimo, insomma. Poi andiamo avanti, passiamo a Kwon, un altro gioco molto raro, sviluppato da From Software, mi sembra, è un J-horror, stile Project Zero. E questo credo costi anche di più. Beh, oddio, non tanto, più o meno come Rule of Rose. 200 euro, 200 euro, 250 euro, 443 euro. Questo dall'Inghilterra. Dalla Francia, una versione promo, 200 euro. Dalla Francia, sempre dalla Francia, 512 euro. Dalla Spagna, 400 euro più 50 euro di spedizione. Minchia. Vabbè, pure qua. Che poi, ragazzi, mo, adesso piccola parentesi, allora, Rule of Rose io lo pagai perché comunque sapevo che era anche un ottimo gioco. Kwon, sinceramente, io ho letto un po' di parere in giro, ma non lo so se sia tutto sto gran giocone in realtà, eh. Cioè, a me piacerebbe prenderlo, tant'è che infatti ho citato, me lo sono scritto per primo proprio perché mi piacerebbe averlo tanto, però, boh, sinceramente tutti questi soldi, vabbè, staremo a vedere. Allora, un altro che mi interessava e che purtroppo non ho avuto modo mai di possedere è Project Zero 3, che mi sembra stia intorno, ho visto poco tempo fa, intorno a 50 euro. Infatti vedo 50 euro, 80 euro, 90 euro, 100 euro, 110 euro. Ah no, 110 euro però è un bundle con tutti e tre i giochi, quindi 1, 2 e 3. Quindi vabbè, ma forse un mezzo pensiero ce lo posso fare su Project Zero 3, perché di quelli usciti qua è l'unico che mi manca. Oddio, no, mi manca pure quello per Wii U. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, poi abbiamo. Ah, vabbè, abbiamo poi il gioco sulla casa. Questo gioco sulla casa, Evil Dead, uscito per PlayStation 2. Ne sono usciti diversi. Eccolo qua, Evil Dead, 100 euro, sigillato. Pure questo. Poi questo qua, Evil Dead, no, questo ancora con la PlayStation 1. Ah, Evil Dead, Fistful of Boomstick. Vabbè, 20 euro però. 20 euro più 6 a disposizione. Potrebbe essere interessante, eh? Questo, attenzione. Poi, allora, poi andiamo avanti. E con Forbidden Siren, che secondo me non dovrebbe ancora costare tantissimo. Infatti vedo 25 euro. 25 euro il primo, sì. Poi c'è Forbidden Siren 2, che mi sa che è quello più raro in effetti, perché mi pare che era quello che aveva i prezzi più alti. Infatti vedo 50 euro. Perché il primo vedo ancora 20-25 euro. Invece il secondo vedo 50 euro, 35 euro. Eh sì, no, il 2 è quello più raro. Cioè, 130 euro sigillato, ragazzi. Forbidden Siren 2. Allucinante. Però è raro, ragazzi. Poi, allora, andiamo avanti con Clock Tower 3. Che pure questo mi sa che comincia a essere bello raro. Oddio, no, in realtà 18 euro. Però anche 32 euro. 35 euro, 90 euro sigillato. Vabbè, poi Hunting Ground. Beh, giustamente non puoi pensare a Clock Tower 3 senza pensare ad Hunting Ground. Che pure questo dovrebbe costare un pochino. Infatti, 40 euro, 70 euro, 40 euro, 40 euro, 50 euro, 80 euro. Questo nuovo, sì, 80 euro nuovo. Ma ci sta, raga. D'altronde, no, io ho avuto la fortuna di prenderlo su Amazon, quando ancora si trovava su Amazon, a un prezzo abbastanza ragionevole, intorno poco meno di 20 euro, cioè roba. Ed era nuovo, eh? E dunque, passiamo a Resident Evil, va. Resident Evil Outbreak, che pure questo non so quanto possa essere. Beh, no, dai, 12 euro. Outbreak fa il numero 2, ma sai che è quello un po' più raro, infatti 25 euro. No, vabbè, tutto sommato, Outbreak ancora potrebbe. Beh, sigillato 90 euro. Vabbè, ma ragazzi, ma qualsiasi cosa sigillata PlayStation 2 mi sa che costicchia parecchio, eh. Allora, vediamo invece Resident Evil Dead Aim, che spara tutto su binari, mi sembra. Non l'ho mai avuto, sinceramente. Vabbè, anche questo è ancora accessibile. 22 euro, 20 euro, 25 euro, 22 euro. Beh, ancora 30 euro. 170 euro sigillato, però. Bene. Allora, poi cerchiamo la Silent Hill Collection, che non, da non confondere con la Silent Hill Collection HD, quella uscita per PlayStation 3, ma è uscita una Silent Hill Collection per PlayStation 2, in cui erano compresi Silent Hill 2, 3 e 4, e questa mi ricordo costava un botto, infatti 70 euro, 150 euro, 170 euro, mamma mia, ragazzi, cioè. 350 euro dalla Spagna? Beh, tanto, ragazzi, questo mi ricordo che erano uscite poche copie di questa collection. Poi, se rimanendo in tema Silent Hill, vediamo Silent Hill Origins, che mi ricordo, dato che era un gioco uscito per PSP, hanno fatto il porting per PlayStation 2 e quindi non c'erano tantissime copie. Poi la PlayStation 2 era ormai sul viale del tramonto, praticamente. Infatti vedo 40 euro, sigillato 80 euro. 55 euro, 60 euro, 70 euro. Eh sì, abbastanza altino. Poi, sempre PlayStation 2, sempre Silent Hill, parliamo però di Shattered Memories, che anche questo infatti era uscito per Wii e poi hanno fatto il porting PlayStation 2. Infatti, sigillato 90 euro. Poi, sempre sigillato 100 euro. 80 euro di seconda mano. 80 euro, 100 euro. E no, infatti io considerate ho sia quello per Wii sia quello per PSP. In questo PlayStation 2 non ce l'ho e non lo prenderò mai, credo. Per quanto sia amante di Silent Hill. Poi, vediamo un po' il. Mi pare che era uscito un gioco per PlayStation 2 della serie Galerians. O forse mi sto sbagliando. No, sì, è uscito Galerians Ash. Vabbè, 60 euro sigillato. 100 euro sigillato. Però c'è questo qui, 20 euro usato. Però solo 20 euro. Che poi il punto ci sono. Queste differenze nette tra usato e sigillato che veramente ogni tanto non me ne capacito. 15 euro, proprio questo dalla Germania. Sì, perché io al massimo o cerco l'edizione italiana o cerco l'edizione del Regno Unito, le versioni tedesche, francesi, spagnole. Poi vediamo Econite Beyond, PlayStation 2, sempre. Che questo pure lo pagai su... lo presi sempre su Amazon. 30 euro, 27 euro, 50 euro, 80 euro, questo penso sia sigillato, 80 euro. 90 euro sigillato, 100 euro sigillato. Vabbè, abbiamo finito con la PlayStation 2. Non credo che me ne vengano in mente. Proviamo a scrivere Horror PS2. Vediamo se esce fuori qualche altro titolo che... Vabbè, Silent Hill 3, 30 euro. Obscure, 25 euro. Vabbè, Project Zero 2. Project Zero 2, 50 euro, ragazzi, eh. Non ho capito se è un nuovo o usato. Vabbè, penso usato comunque. Poi c'è Resident Evil Survivor 2. Ah, vero, me lo sono dimenticato. 60 euro. La Cosa, 25 euro. Cold Fear, 25 euro. Però mi sembra di Cold Fear c'erano parecchie altre inserzioni dove c'erano. Perché volevo prenderlo Cold Fear. C'erano prezzi anche più bassi in realtà. Silent Hill 4 The Room, 30 euro. Resident Evil Code Veronica, 20 euro. Vabbè, ma ancora se ne trovano, insomma. E vabbè, Second Sight 15 euro, vabbè, ma questi molti titoli, diciamo, tendono a costare poco, ma sono anche meno pregiati in realtà, eh. Va bene, passiamo ai giochi GameCube, che ce ne sono parecchi che sono pregiati. Il primo chiaramente che viene in mente è Eternal Darkness, che è molto pregiato, infatti 65 euro, 55 euro, 70 euro. Questi sono tutti usati, eh. 130 euro usato. Poi c'è la versione giapponese di Eternal Darkness, 21,90 euro. Così. 140 euro sigillato. Va bene, basta così. Passiamo a Resident Evil, a tutti i Resident Evil che sono usciti. Quindi partiamo da Resident Evil 0. Vabbè, 20 euro. 10 euro. Mazza, 30 euro. 15 euro. Mazza, costa... Così, non pensavo così basso. Vabbè, forse perché è meno pregiato Resident Evil. Proviamo a vedere invece il Rebirth, va. Il remake del primo, quanto viene? 15 euro, 20 euro, 23 euro, sigillato 60 euro. Beh, però pensavo di più, ragazzi. Ma forse perché ci sono tante copie, ragazzi. Forse probabilmente ha avuto una distribuzione abbastanza ampia, quindi per questo che ancora... Perché pensavo, sai che il GameCube, non essendo PlayStation, magari ha avuto comunque meno una diffusione più limitata. Comunque, ok, no. Vediamo invece allora i Resident Evil, perché sono usciti anche Resident Evil 2 e 3. Resident Evil 2 sigillato 140 euro. Resident Evil 3 di seconda mano 150 euro. Vabbè, ma siamo matti. Boh, allucinante. Ok, rimaniamo in tema Nintendo. Vabbè, no, proviamo a cercare Survival Horror GameCube. Vediamo se c'è qualche altro titolo, ma... Non ne sono usciti tanti, non ne sono usciti tanti, eh. Infatti vedo sempre Resident Evil, Rebirth, Resident Evil 4, 10 euro, Resident Evil 4, 30 euro, Code Veronica, ah beh, è uscito anche per GameCube Code Veronica, è vero? 77 euro dal Regno Unito, Resident Evil 3, 80 euro dal Regno Unito sempre, sì. Vabbè, non c'è altro, non c'è altro. Rimaniamo in tema Nintendo e passiamo ai giochi Wii. Partiamo dal Ju-On. Ne sono usciti tanti, è uscito anche un gioco Ju-On, quindi meglio noto come The Grudge da noi, e guardate è uscito anche un film. Allora, 30 euro dalla Germania, mi sa che in Italia non mi ha trovato niente, proviamo a cercare The Grudge invece che Ju-On, va. The Grudge, Wii. Allora, Regno Unito, Germania, Regno Unito, Regno Unito, e comunque costa tra i 40 e i 70 euro, vedo. Stati Uniti 100 euro. Vabbè, non c'è sta niente in Italia, quindi a questo punto lasciamo perdere. Poi rimaniamo in tema horror giapponesi e cerchiamo Calling. Allora, Calling 30 euro, sigillato. Sigillato 30 euro? E questo lo prendo, ragazzi, sigillato 30 euro? A me mi manca Calling. 30 euro più 6 di spedizione, questo non me lo segno. 28 euro. Ah no, questo qua seconda mano 28 euro. E spedizione gratis. Potrebbe essere interessante. 60 euro in celofanato. Comunque no, non costa poco comunque. Allora, vediamo sempre per Wii Dead Space Extraction. Che invece ho comprato. Comprai all'epoca. Però secondo me non dovrebbe costare tanto, 25, 16 euro, 19 euro, 24 euro, tutti usati questi, eh? 17 euro, 19 euro, vabbè, ma parliamo comunque di uno spin-off di Dead Space, che a me era piaciuto parecchio però, mi ha divertito molto con... Cioè non è un titoletto fatto così, era... comunque aveva un suo perché. Poi cerchiamo Cursed Mountain, che anche questo possiedo, e non mi era dispiaciuto. Allora, 50 euro, 20 euro, 30 euro, 5 euro. Beh, c'è prezzi per tutte le tasche, vedo. Dai 5 euro a 30 euro. No, anzi, 50 euro. Vabbè, questo è nuovo però, 50 euro. Eh? Non era malaccio. Poi, proviamo a vedere l'edizione Wii di Project Zero 2. Che possiedo, anche questo ho acquistato, ma non ho... Mi ero messo a giocare, ma non ho mai finito, non ricordo perché. Allora, 20 euro. 50 euro, 45 euro, 50 euro, 28 euro, non è poco, ma perché ne erano uscite poche, mi sembra, in effetti, eh. Allora, poi cerchiamo, allora, qua che cosa ho? Ah, sì, tutti i Resident Evil usciti. E partiamo da Resident Evil Umbrella Chronicles, 18 euro, 14 euro, 30 euro, 40 euro, hanno anche questo di seconda mano. Sai, i giochi Wii, ragazzi, sono ancora accessibili, però, eh. Sai che qualcuno me lo prendo e riattacco la Wii e ci rigioco. Questi me li devo segnare. Allora, Resident Evil, allora, vediamo invece Dark Side Chronicles, sempre a proposito di Resident Evil. Ah, 22 euro. Che poi, vabbè, Dark Side Chronicles è... no, mi pare che è sempre la riedizione su binari del 2. Non vorrei dire una sciocchezza. Non sono molto preparato sui giochi Wii di Resident Evil. Ah, 17 euro, 40 euro, 20 euro. Beh, comunque ancora si... Sono ancora fattibili, devo dire. 5 euro. Ma questo è del Regno Unito, però. Però se è multilingua, potrebbe interessare. Allora, mi sa che ho detto tutto per Wii. E passiamo al Wii U. Che praticamente è soltanto un gioco che ho anche accennato prima, che è Project Zero. Ah no, aspettate, a proposito di Project Zero. Mi sono dimenticato che c'è Project Zero 4. Che praticamente è un Project Zero che da noi non è mai uscito. È uscito solo in Giappone, purtroppo. Ed è uscito per Wii. Che tradotto letteralmente dovrebbe chiamarsi Project Zero, com'era? La maschera dell'eclissi lunare, tipo una cosa del genere, Mask of Lunar Eclipse. Vediamo un po' se c'è sta su eBay, va. Project Zero, Lunar Eclipse, provo a cercare, boh. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Ah, eccolo qua, mi sa. Fatal, vabbè, questo è... In Giappone, 67 euro, è soltanto in sezioni giapponesi mi trova. 43 euro. 50 euro, vabbè, che tanto non lo potrei mai giocare pure se lo volessi. Allora, come dicevo prima, vediamo invece Project Zero, il famigerato Project Zero. Aspettate che sto digitando male. Project Zero Maiden of Blackwater, che da noi praticamente è uscito esclusivamente in edizione limitata. Quindi già per questo fa capire il prezzo altissimo, infatti 250 euro. Sigillata, non credo però. Ah, questo è 250 euro nuovo. Poi c'è un'altra inserzione che è 250 euro usata. Questo poi non so se. Questa è inserzione italiana, questa? Sì, questa è italiana. Questo ragazzi è tosta. 250 euro è veramente troppo. Mi spiace, lasciamo dire proprio di no. Poi c'è, sempre per Wii U, c'era Zombie U. Però mi sa che questo te lo tirano appresso. Infatti 8 euro spedizione gratis, ragazzi. Allucinante. Vabbè, ma infatti, ragazzi, ma è stato un floppone incredibile, Zombie U. Cioè, uno di quei giochi che prometteva chissà che, ma poi si è rivelato veramente un titoletto da niente. Passiamo alla PSP. Cerchiamo Silent Hill Origins. 30 euro, 25 euro, 25 euro. Vabbè, non tanto, ragazzi, ma forse i giochi PSP, forse in generale, ne sono poco ricercati. Cerchiamo Shattered Memories, sempre riguardante Silent Hill. Shattered Memories per PSP. 15 euro, 22 euro, 33 euro, 20 euro. Sì, non poco, ma neanche tantissimo alla fine. Poi cerchiamo Obscure, che mi sembra che era Obscure After Matter, si chiamava per... Chiaramente la riedizione del secondo Obscure per PSP. Un po' di nascemenza. 50 euro sigillato. 25 euro. 44 euro, 23 euro. Eh beh, vabbè, se lo possono tenere per quanto mi riguarda. Poi c'è Parasite Eve 3, The Third Birthday, che questo invece mi pare che era abbastanza ricercato, eh? Infatti 80 euro sigillato, 138 euro dal Regno Unito, 200 euro, 210 euro, 115 euro, minchia. Vabbè, se lo tengono, anche perché poi mi sembra che non fu neanche un gran capolavoro, cioè almeno rispetto ai primi due usciti per PlayStation, questo terzo... Che poi non so se è il terzo capitolo o sono uno spin-off. Boh, comunque non ha lasciato il segno. E a proposito di PlayStation 1, passiamo ai titoli PlayStation. Cominciamo da Silent Hill, ovviamente, che secondo me non dovrebbe ancora costare tantissimo. O meglio, dovrebbe, nel senso che non si dovrebbe trovare a 10 euro, quello intendevo. Infatti 52 euro, 100 euro, 100 euro... Eh no, di seconda mano sempre. 110 euro... 25 euro? Ah no, 25 euro solo la scatola. 120 euro prima stampa. 130 euro. Ma ragazzi, Silent Hill è Silent Hill. Poi, Resident Evil. Vediamo un po' Resident Evil. 30 euro. 17 euro. 50 euro Resident Evil 3. Poi, ma questo qua invece, questo qua mi sa che è una truffa, perché Resident Evil 2, 7,5 euro seconda mano. Beh, o è una truffa o... Ah no, è un'asta, ragazzi. No, niente, tutto qua. È un'asta per quello che costa ancora poco. Quindi arrivato alla fine dell'asta, il prezzo salirà. Allora, Resident Evil 2 50 euro. 38 euro Resident Evil 2. Vabbè, stiamo sempre intorno a questo qua. 80 euro di seconda mano. È un po'... C'è un po' di tutto, vedo. Beh, comunque non costano poco perché comunque sono dei... Cioè, comunque cominciano a essere dei pezzi belli, belli pregiati. Vediamo invece Dino Crisis, sia il primo che il secondo. 35 euro. Ah, 35 euro solamente il disco e il libretto, perché manca la custodia. Benissimo. 35 euro. Questo invece è tutto. 35 euro tutto quanto, ma sempre usato. 28 euro. 25 euro. Questa è la versione 25 euro, la versione americana. 50 euro. 50 euro ancora. Questo sempre era Dino Crisis 1, questi che vi ho detto, perché poi c'è Dino Crisis 2, c'è questo qua nel Regno Unito 31 euro. Non se ne trovano molti di Dino Crisis 2 però, fammelo ricercare meglio, fammi raffinare un po' la ricerca. 90 euro. E intanto li possiamo tutti e due, quindi chi cazzo se ne frega. 60 euro, 100 euro, 75 euro. Vediamo Clock Tower, che poi vabbè. Da noi è uscito direttamente, che poi Clock Tower PlayStation 1 in realtà sarebbe il Clock Tower 2 uscito in Giappone, dovrebbe essere. 240 euro. No, questo mi ricordo era... Infatti c'è sta Clock Tower 2 giapponese a 20 euro. Invece abbiamo Clock Tower europeo 160 euro, 110 euro, 80 euro dalla Francia. È bello costoso questo. Vediamo i due Parasite Eve. 350 euro sigillato, bene. 55 euro, 38 euro, 60 euro però questa è la versione americana. 400 euro in celofanato, 45 euro, 1500 euro la preview, la copia di preview, la versione promo, minchia, 1500 euro. Ma questo dove? Dove sta questo? In Italia. 1500 euro, ma tu non stai bene, caro amico piemontese. 60 euro, il 2, Parasite 2, Parasite Eve 2, 60 euro. Poi questo che cos'è? Parasite Eve 1, 180 euro dal Giappone, sigillato. Ah, poi c'è sta la Millennium Collection giapponese di Parasite Eve 2, 500 euro. Qua parliamo di Collector's Edition, non c'è per là, insomma. Allora, andiamo avanti e vediamo Overblood, che mi sembra che il 2 ancora si trovi. Infatti mi ricordo, l'ho preso di recente, l'ho pagato pochissimo. Infatti 15 euro il 2, vedo. 70 euro sigillato. Il primo, invece, 40 euro usato, chiaramente. 40 euro a 12 euro. Perché poi adesso sono quasi tutti Overblood 2. A 20 euro. Tra i 20 e i 30 euro. Vabbè, ma poco, infatti. Mi interessava più lì. Infatti ho Overblood 2, ma non Overblood 1. Quindi, prima o poi... E che purtroppo, ragazzi, a una certa uno deve pensare a cosa piacerebbe giocare. Cioè, comunque, Overblood E comunque molto in secondo piano rispetto ad altri titoli che vorrei avere, insomma, anche questo è. Cioè, il giorno in cui prendo Overblood 1 è perché possiedo già mezzo mondo, insomma. Allora, vediamo invece Hell Knight, che è stato un po' il precursore delle avventure horror in prima persona, molto prima di Amnesia e Dark Descent. E questo mi ricordo pure era rarissimo, mentre, infatti lo volevo prendere, ma cazzo, 110 euro, usato, 136 euro. 250 euro sigillato. Eh beh, ragazzi. Mannaggia. Allora, poi cerchiamo questo gioco chiamato D. Proprio D. Molti di voi conosceranno. Che altro è difficile cercarlo. Eccolo qua. Ce n'è uno. Un'inserzione del Regno Unito 45 euro. E basta. Perché poi purtroppo è. Come cacchio faccio a cercare un gioco che ha una lettera come titolo? Allora, 72 euro. D. Sempre dal Regno Unito. In Italia non c'è niente, purtroppo. Allora, poi cerchiamo Martian Gothic Unification. Questa è la versione del re. Che purtroppo io Martian Gothic l'ho comprato tempo dietro, tantissimi, parecchi anni fa, sempre su eBay, prendendo l'edizione uscita in Germania, pensando che fosse multipiattaforma, multilingua. E invece il cazzo è solamente in tedesco. E vaffanculo, mi sono attaccato al cazzo. E allora, invece qua vediamo adesso PlayStation, Regno Unito, Martian Gothic. Purtroppo in Italia non ci sono Ah no, c'è sta questa qua, 25 euro. 25 euro ovviamente usato, 30 euro sempre in Italia e poi il resto inserzioni o dalla Germania o dal Regno Unito. Che no, i prezzi all'estero sono più bassi, 10 euro, 13 euro. Questo dalla Germania, infatti io lo pagai, presi quello dalla Germania perché lo pagai pochissimo, infatti questo 8 euro, però metti il disco solo in tedesco, purtroppo. Allora, cerchiamo invece poi Galerians, che pure questo era bello rarino, infatti 60 euro, 60 euro il primo Galerians, che poi mi sa, è uscito un solo Galerians, mi pare, che poi su Galerians sono poco ferrato. Eh no, ma sa che è uscito Galerians su PlayStation e poi Galerians esce su PlayStation 2. 330 euro dalla Spagna. Nuovo però, 50 euro dalla Germania. E no, niente, sono tutti. Ah no, 100, questo qua 150 euro. Nuovo. No, come nuovo? Vabbè, 150 euro per Galerians, ragazzi. Ma come cacchio pretendi di venderlo? Vabbè, cerchiamo Alone in the Dark, The New Nightmare. Boh, non trovo. Tutte dalla Francia. Ah no, eccolo. Eccolo qua. 10 euro. Mazza. 10 euro più 8 euro di iscrizione. Vabbè, io perché già ce l'ho, perché altrimenti non sarebbe male. In realtà, quello su PlayStation, perché è uscito sia su PlayStation 1 che su PlayStation 2. Chiaramente su PlayStation 2 è un pochino meglio, insomma. 20 euro. Questo 20 euro pure, boh. Non mi convincono questi prezzi. Allora, cerchiamo adesso Echo Knight Beyond. Ah no, scusa, quello abbiamo detto era su PlayStation 1. Cerchiamo Echo Knight, che sono usciti due Echo Knight, mi sembra, su PlayStation. Però mi sa solo. Da noi no, mi sembra. Solamente in Giappone. 33 euro, 45 euro, 10 euro, 45 euro. 45 euro solo disco. Vabbè. Poi cerchiamo. Allora, cioè, è uscito un gioco su Evil Dead, mi pare, sempre su PlayStation. Ah sì, Evil Dead Hell to the King, ovviamente. 50 euro, 30 euro, 130, no, 140 euro sigillato, 50 euro di seconda mano. E non mi pare che non era, ma neanche malaccio mi sembra come gioco. Poi cerchiamo questo, vabbè, cerchiamo Kudelka, che è un horror RPG, che non era malaccio, però anche questo parecchio raro. Versione italiana 70 euro, 80 euro, usato chiaramente. Ma questo era rarissimo, infatti. Niente, ci sono solo un paio di inserzioni italiane. 70-80 euro. Poi cerchiamo The Note. Intanto qua sta arrivando un temporale, sta arrivando. The Note 100 euro, seconda mano, e basta, solamente questa inserzione qui c'è. 100 euro. Ah no, 100 euro, poi è un'asta, ragazzi. Quindi questo costerà un botto allora. Eh sì, che addirittura una versione, un'inserzione del Regno Unito, The Note, sigillato, 1500 euro. Vabbè, allora 100 euro è poco, ragazzi. Allora, poi cerchiamo Countdown Vampires, che è un altro gioco stile Resident Evil ma con i vampiri. 150 euro, questa però che versione è? Questa è una versione giapponese. Non ci sono, in Italia non c'è niente. Boh, non ci sono. Vabbè, non mi trovo. Beh, in Italia non lo vendono. Boh, non esiste, vabbè. E va bene. Allora, passiamo poi ad altri giochi di altre console. Il primo che mi viene in mente è Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth per Xbox. Che poi questo mi sa che io possiedo, ma non ho mai avuto modo di giocare perché non ho mai avuto la prima Xbox. Però ho avuto la Xbox 360 pensando che funzionasse su quella console, invece no. Ma sto fregato. Allora, mi trova solamente la versione PC, mi trova. A 20 euro spedizione gratis. Questo non è malaccio, però, eh. Vabbè, perché su PC i prezzi sono già un po' più bassi. Infatti, eccolo qua. Questo però è del Regno Unito. 40 euro dal Regno Unito. 30 euro dalla Francia. Per Xbox, eh. 40 euro dalla Spagna. In Italia non lo vende nessuno. Vabbè, ragazzi, ho un pezzo pregiato, quindi, che in Italia non c'è. Poi vediamo Resident Evil Code Veronica per Dreamcast, 50 euro, 25 euro, 60 euro, 50 euro, 90 euro dalla versione americana. Poi, come si chiama il gioco? Blue Stinger, sempre per Dreamcast, che è un altro, diciamo, non mi ricordo se la risposta. Sempre un gioco alla Resident Evil, Blue Stinger, 20 euro. Vabbè, poco però. Alla fine, 10 euro. Sì, ma sono tutte versioni. Questa è versione giapponese. Sì, ma non c'è sta. C'è sta Blue Stinger, versione tedesca, 20 euro. Eccolo qua, la versione italiana, 35 euro. Intanto non potrei mai giocarlo alla fine. Quindi. Poi cerchiamo Hellblade, sempre per Dreamcast, fatto sempre dagli stessi tizi di Blue Stinger. 150 euro versione americana. Non c'è la versione giapponese. 180 euro sempre dagli Stati Uniti. 335 euro dagli Stati Uniti. Mi sa che non c'è qui. In Italia non c'è niente. Poi cerchiamo. Dovrebbe esistere un gioco di The Ring uscito per Dreamcast. Che mi ricordo avevano cambiato la cosa della videocassetta, sostituendo la videocassetta con un software. Allora, The Ring. Versione giapponese, però mi sa che forse da noi non è mai uscito, quindi mi sa che trovo solamente versione giapponese. Infatti tutte in sezioni dal Giappone. 18 euro, 25 euro, 20 euro, 85 euro. Va bene, passiamo a qualche gioco PC. Avevo visto tempo fa una versione fighissima di Alone in the Dark, il primo Alone in the Dark per PC, che aveva tutti i floppy. Era una versione boxata con i floppy disk. Chissà se la ritrovo. Costava un botto, chiaramente, tipo 180 euro. Non la ritrovo più. Ma The Alone in the Dark sono uscite un sacco di edizioni, perché poi, ecco, c'è il bundle con i primi tre, il cofanetto con i primi tre, infatti 130 euro. Vabbè, qua mi trovo anche il gioco per PC uscito nel. Il gioco quello uscito nel 2000, che è 2008. Poi c'è Alone in the Dark 2 in celofanato 30 euro. Vediamo allora, sì, vediamo un po' invece Sanitarium. Sì. 140 euro. La versione big box, chiaramente. Oppure c'è la versione compact disc, 25 euro, 65 euro, 440 euro. Che cacchio è questo? Ah, per PC IBM, ma che è? Boh, interessante comunque. Poi cerchiamo Nocturne, un altro gioco che mi interessava. 100 euro. 100 euro, 60 euro. Vediamo un po' invece i System Shock, sia il primo che il secondo. 50 euro ed è un'asta questa. 180 euro la versione big box con i floppy disk. 150 euro sempre primo System Shock. Ah no, questa però. Questa è la Enhanced Edition di System Shock. Questa è quella mezza che ha rilasciato Limited Run ultimamente. Quindi non è quella originale. 200 euro sempre primo System Shock. System Shock 2 big box in italiano. 300 euro, mamma mia. Però ragazzi, che bello, quanto mi piacerebbe averlo. Cerchiamo Dark Seed, gioco dove ha lavorato il grande Giger. 40 euro, 60 euro. Queste sono. No, queste sono tutte inserzioni estere. 40-60 euro. Poi Amnesia Dark Descent, che non sapete, ma è uscito retail in America. 53 euro. Io ho fatto un affarone prendendolo a poco. A circa 20 euro da un tizio della Croazia. Questo Quindi ho risparmiato un botto di spedizione, perché chiaramente dalla Croazia comunque è abbastanza. Non è come prenderlo negli Stati Uniti, insomma. Infatti sono tutte intenzioni statunitensi, ma comunque non costano tanto, eh. 15 euro, 17 euro. Evidentemente perché ne erano uscite parecchie di copie in America, quindi. E rimanendo in tema Frictional Games, cerchiamo anche i Penumbra. Allora, Penumbra Overture, 15 euro. Poi c'è il pacchetto, questo pacchetto Penumbra Black Plague e Requiem 20 euro. Dunque non costa tanto questo, devo dire. Eh? 20 euro, eh? Sì, stiamo lì. Poi volevo vedere se c'era qualche edizione Big Box di Silent Hill 2. Che mi pare che esisteva una versione Big Box. E infatti, cazzo, c'è cioè una versione Silent Hill 2 Director's Cut Big Box 1400 euro. Mamma mia. No, esagerato. E mi pare anche di Silent Hill 4 era uscita una versione Big Box per PC. E infatti, 300 euro dalla Germania, 355 euro dalla Polonia. No, che poi aspetta, questa poi è la versione asiatica. Cioè, in Asia è uscito in versione Big Box. Vabbè, ma che cazzo ci faccio, ragazzi? A me Silent Hill è la mia saga preferita, ma che ci devo fare con tutte queste cose? Cioè, piuttosto, se devo spendere dei soldi, voglio spenderli per qualcosa che posso giocare. E vediamo invece la stessa cosa per Resident Evil. Vediamo se Resident Evil è uscito in versione Big Box. Resident Evil 3 Nemesis Big Box italiano 70 euro. Beh, potrebbe avere un suo perché. Resident Evil 2 Big Box 150 euro seconda mano, chiaramente. Resident Evil 2, questa è l'edizione del Regno Unito, 120 euro. Il primo Resident Evil per PC Big Box 170 euro. Però Resident Evil 3 Nemesis Big Box 70 euro, l'unico, mi sembra un discreto affare. E niente, poi beh, sui PC ci sarebbe veramente un mondo da scoprire, però fammi vedere Horror Big Box cosa esce fuori. Ah, Enemy Zero pure, è vero, è uscito fuori Enemy Zero per PC Big Box 100 euro. Poi Sanitarium l'abbiamo visto prima. Martian Gothic per PC del Regno Unito 17 euro. Resident Evil 5 Big Box 50 euro. Potete voi. No, non allora. Fantasmagoria. È vero, Fantasmagoria pure. 38. O Fantasmagoria. Come si dice, ragazzi? Scusa, perdonatemi. E allora, Elvira, il mitico Elvira. 110 euro. Madonna. No, poi niente, non mi trovo altra roba che non c'entra niente con il mondo horror. Vabbè, un mio pallino è Project Firestart per Commodore 64, ma ragazzi, io quello lo sto cercando da una vita, ma non esiste, cioè non si trova, è veramente impossibile. Cioè, niente, parliamo del nonno di Survival Horror, perché se Alone in the Dark si può considerare il padre di Survival Horror, Project Firestart è il nonno di Survival Horror, infatti lo cerco, ma non trovo nulla, non mi trova niente. Va bene, abbiamo finito. Ditemi, scrivetemi, ditemi se magari possedete voi qualche pezzo pregiato o se magari ho dimenticato qualche cosa. Ditemi un po', fatemi sapere cosa ne pensate. Se grazie per avermi ascoltato, se avete gradito, scrivete un commento sull'End of Rust su Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, insomma. L'appuntamento al prossimo log, chiaramente adesso torneranno le news settimanali, parleremo di Resident Evil Village e di che cosa? Ah, è di The Medium. E appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao e buona domenica.